Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Eccoci, buon sabato a tutti e buon sabato ad Alberto Pellai che è qui seduto accanto a me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buone vacanze a tutti. Allora, molti temi affronteremo nel corso della trasmissione per confrontarci, dare tanti consigli. Direi che passiamo subito ai titoli del nostro sommario e poi via con la nostra discussione. Figli in vacanza con un mare di tecnologia, pro e contro. Viva la mamma! Anche in vacanza celebriamo la donna più importante della nostra vita. Un progetto per l'estate, l'Orto di Famiglia. Allora direi, Alberto, partiamo dallo spunto che ci ha proposto una mamma che ha inviato in redazione questa mail. Sentiamo. Paolo, 11 anni, andrà in vacanza con una sua cugina ipertecnologica. Lei lo ha invitato nella loro casa in Sardegna e siamo stati ben felici di questa opportunità che gli è stata offerta. Peccato che alla cugina non manchi neanche uno dei gadget elettronici tanto in voga adesso tra i preadolescenti, mentre il nostro Paolo è cresciuto ad un livello di tecnologia pari a zero. Ci domandiamo quale effetto avrà questo effetto contaminante e se non sia il caso di dotare Paolo di un cellulare per questa trasferta. È la prima volta che Paolo va in vacanza senza di noi e proporgli di avere un cellulare per poterci chiamare quando vuole potrebbe aiutarci a farlo sentire non così diverso da sua cugina. Che ne dite? Allora, direi, Alberto, che questo è un tema caldo, un po' come il sole d'agosto. Ma noi abbiamo un grande esperto che ci aiuterà ad affrontarlo, che voglio presentarvi subito, il professor Matteo Lancini, che è professore incaricato di psicologia dell'adolescenza all'Università di Milano Bicocca, autore di un libro il cui titolo fa proprio il caso nostro, Sempre in contatto. Professor Lancini, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, 11 anni, praticamente digiuno di tecnologia, ma con contatti ravvicinati con una cugina super tecnologica. La mamma è un pochino preoccupata. Lei sarebbe preoccupato di questa contaminazione? Ma ovviamente mi sembra che questa mamma esprima benissimo delle preoccupazioni di molti genitori, cioè da una parte il timore che entrare in contatto con coetanei, in questo caso una cugina, come dire, possa in qualche modo trasformare il figlio, dall'altra anche in qualche modo la necessità di spingere i figli, soprattutto a questa età, verso esperienze di socializzazione e di allargamento delle proprie conoscenze in linea con l'età. E quindi è ovvio che questa mamma ha delle preoccupazioni. Io penso che però, come questa esperienza sia anche un'esperienza, così come la presenta la mamma, protetta con una cugina, quindi con dei genitori anche che presidiano, e quindi che l'esperienza possa essere più di crescita che in qualche modo fuorviante per il suo figlio non ancora tecnologico. Devo dire, professore, che io la penso come lei, ma Alberto sa che è molto severo con la tecnologia, i suoi bambini non vedono la televisione, so che mamma sul mia, cellulare, un mostro di papà. Sul cellulare, soprattutto la mamma dice 11 anni, magari il cellulare. Alberto, tu invece in che posizione ti metti? Ma io mi domando se a 11 anni, visto che va dalla cugina ipertecnologica, questo sia un motivo sufficiente per dire da questo momento in poi nostro figlio verrà dotato di un cellulare, e mi sento rispetto alla proprio una posizione educativa di decidere preventivamente come mamma e come papà qual è l'età secondo in base alla quale secondo noi nostro figlio davvero ha bisogno di un cellulare in mano. In secondo luogo, mi sembra che dietro a questa richiesta di cellulare, ma rimando alla provocazione al professor Lancini, ci sia l'ansia di una mamma che per la prima volta si separa da un figlio, quindi una fantasia di costante raggiungibilità, per cui gli do in mano un cellulare non tanto perché è vicino alla cugina ipertecnologica, quanto perché se lui ha il cellulare io lo posso chiamare tutte le volte che voglio, e a quel punto il cellulare mi consente di sapere dov'è, cosa fa, se è triste oppure no. Astuta la mamma. Professore. Sì, siete esperti di ansie materne, probabilmente dietro c'è anche questo aspetto. Credo che dal mio punto di vista sia giusto, cioè i genitori debbano decidere a che età, come dire, avvicinare questi strumenti ai genitori e ai propri figli. Dall'altra parte è vero comunque che questa esperienza di distanza può essere vista, essendo il primo viaggio, anche come un'esperienza di allontanamento per la prima volta per il figlio. Quindi secondo me a questa età si può, pur rimanendo la decisione appunto giustamente in mano ai genitori, discutere con Paolo, no? Se lui si sente più tranquillo ad avere comunque un contatto con i propri genitori o se si può accontentare della classica telefonata serale che a questa età si fa quando si va lontano. Ecco, io direi per una telefonata serale, non lo so Alberto, perché intanto va dalla cugina, quindi ci andrà dagli zii, immagino, perché questa per essere cugina deve avere comunque dei genitori che hanno un grado di parentela col bambino e anche con la sua mamma, quindi io direi, no? Una telefonata serale. Anche così il ragazzo si sente cresciuto, indipendente e magari dargli qualche informazione in più su questi apparecchi tecnologici di cui è dotata la cugina per strutturarlo un pochino. Cosa dice Alberto? Ma insomma, non è il cellulare secondo me che fa la differenza. A questo punto vieni un po' dalla mia parte, cioè potrebbe funzionare davvero che ci si mette d'accordo con la cugina, si dice che tra le 20 e le 22 i genitori chiameranno il figlio sul cellulare della cugina, visto che è dotata di tutto, e lui potrebbe probabilmente ancora fare a meno. Certo che di questo gadget elettronico. Ci sono tutti questi problemi, professore, c'è il rischio che i nostri figli non li inviti più nessuno se dobbiamo, no, tutto pianificare, sentiamo la cugina, sentiamo la mamma della cugina. Cosa dice professore? Tutte queste precisazioni alla fine non fanno sentire nostro figlio un po' diverso? Ma di sicuro è da dire che infatti lei dice dalle 20 fino alle 22, non vorrei che dopo le 22 poi uscissero i due scappando dal controllo dei genitori d'estate, ma non credo. No, ma penso che davvero sia giusto in qualche maniera regolamentare, non lasciare in mano ai ragazzi né al gruppo che per quanto ha un potere importante o le amicizie non può avere il potere educativo e formativo degli adulti. Dall'altra parte è anche vero che per questo dipende, no? Se lui non sente l'esigenza, penso che si possano appunto non come dire assegnargli sin da subito un cellulare per mantenere il contatto con la mamma. Può essere che negli anni successivi invece questo ragazzo, anche grazie a questa esperienza, scopra che la cugina intrattiene relazioni coi coetanei anche quando è lontano e sia in qualche modo invece incuriosito o risulti per lui anche accattivante pensare in futuro di allargare le sue relazioni attraverso appunto questi strumenti. Professor Lancini, in questo momento i genitori d'Italia stanno probabilmente litigando con molti dei loro figli perché le compagnie telefoniche fanno promozioni incredibili legate all'estate e i figli sono sempre attaccati al cellulare a mandare messaggi a destra e sinistra perché ne possono mandare centinaia gratuitamente tutti i giorni. Vale la pena dare regole, intervenire con un figlio 14enne, 15enne, 16enne o lasciar sì che si godano questa promozione della compagnia telefonica, tanto poi arriva settembre e tutto ritorna nella norma? Penso che sia importante discuterne, nel senso che poi i genitori hanno anche delle ragioni nel vedere i figli che invece di godersi il sole a volte o la vita reale stiano sempre in contatto con questo strumento, appunto prolungamento del sé dei nuovi adolescenti. Penso che però sia più utile, piuttosto che combattere una giornaliera battaglia o ogni momento e smettila di stare, fare un discorso, come dire, una volta per tutte o riprenderlo durante le giornate, non intervenendo, interrompendo in certi momenti, perché si rischia che a volte secondo me di intervenire anche in certe situazioni che portano poi a delle reazioni violente, perché in quel momento magari il contatto è davvero importante, no? E appunto è un mondo anche privato che gli adolescenti difendono in quel momento lì. Mi fa sorridere perché lei mi riporta qualche estate fa, quando io adesso ho delle figlie grandi, una di 20 e una di 18, ma quando erano piccoline, prima nelle raccomandazioni arrivavamo al mare e la più grande prima di andare il primo giorno in spiaggia mi diceva: allora mamma, diciamoci tutto. E in quel diciamoci tutto era sì sintetica, una volta per tutti memorizziamo, poi basta, abbiamo capito. E questo diciamoci tutto in fondo mi ricorda quello, mi rimanda a quello che ha detto lei, insomma chiariamoci ma non tormentiamoci continuamente. Professor Lancini, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e buona estate anche a voi. Buona estate. Questa casa non è un albergo. Ecco, ci siamo tornati insieme, Alberto. Avevo un po' premura di tornare perché questo è un po' anche il mio momento. È il momento delle mamme, perché ne abbiamo sentita una preoccupata che ci ha mandato una mail, ma adesso in realtà parliamo di tutte le mamme del mondo, preoccupate. Quindi, e non. La donna più importante della nostra vita, ascoltiamo alcuni estratti di una trasmissione che abbiamo proprio dedicata alle mamme, che non sbagliano mai. In linea con noi abbiamo Paola Maraone, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha pubblicato un libro per Rizzoli e il titolo è Ero una brava mamma prima di avere figli. È una guida pratica per sopravvivere al primo anno di vita del bambino, che in questi tempi può essere davvero duro. Ma io direi di, Alberto, se tu sei d'accordo, di sentirne un breve estratto che coglie un po' l'atmosfera che si legge nelle pagine che tre del libro, e poi lo commentiamo insieme. Si nasce come madri nel momento in cui nasce il proprio figlio. Di lì in poi è tutto da imparare. Essere madri oggi angoscia molto più di un tempo. Non perché il mondo fuori sia diventato più cattivo o più pericoloso, ma perché le donne che lavorano sono oberate dai sensi di colpa e dall'ansia di non essere abbastanza brave. In realtà, la combinazione di attività lavorativa e maternità non è un fenomeno nuovo. Ad andare perduta è stata, nel corso dei decenni, quella forma di naturalezza e di saggezza materna che rendeva l'esperienza di un figlio molto meno ansiogena. Nei primi mesi di vita del neonato, qualunque donna, se lasciata libera di respirare allo stesso ritmo del suo bambino, è in grado di trovare il giusto passo per accudirlo nel modo migliore, che è il modo migliore per quel bambino e non per un altro. Un po' di buon senso e poi quiete, silenzio, tranquillità, pressioni dall'esterno scarse o nulle. Quasi sempre basta questo. Convincersene non è così facile, ma vale la pena provarci. Beh, sicuramente vale la pena provarci, Paola Maraone, tanto che lei ci ha provato ed è andata benissimo. Sì, è andata benissimo con qualche naturale e inevitabile incidente di percorso. Il fatto è che a ripensarci adesso, davvero, dico, mi viene da sorridere, io ho due bambini, una di 4 anni e l'altro di 6 mesi, ma prima che nascesse la mia primogenita non avevo mai tenuto in braccio un neonato. Del resto ho scoperto di essere in buona compagnia, so che le statistiche dicono che un terzo dei neogenitori non ha mai maneggiato un bambino piccolo prima di avere il proprio, insomma, e quindi davvero quello che ci si apre davanti è un mondo nuovo, inaspettato. Io direi, sentiamo che cosa ha scritto un uomo della sua compagna che lo ha reso padre. Camilla era così bella. I chili in più le donavano. La pelle più morbida, le labbra più evidenti, il seno più grosso. Le donne dovrebbero essere sempre in attesa. La gravidanza dona loro una luce più bella e un alone di sacralità che le rende invulnerabili. E loro che stanno lì a lamentarsi dei jeans a vita bassa che non gli stanno più. Avrei fatto qualsiasi cosa per renderla felice. In 12 mesi, grazie a lei, io ero diventato un uomo sereno, appagato e felice. Anche più bello, per la verità. Ingrassato, ma più affascinante, almeno agli occhi del prossimo. Se vai in giro con una donna bella come Camilla, per di più incinta, il minimo che ti può capitare è che il resto del mondo cominci a riconsiderare il giudizio su di te. Prima di conoscere lei ero un uomo alto, coi vestiti perennemente sgualciti e il colorito grigio-verde tipico di chi vive preferibilmente di notte. Da quando c'è lei, sono diventato un uomo alto, che lo sai che quei vestiti sgualciti non gli stanno per niente male. E chissà quante ne combina quello di notte che non torna mai a casa prima delle 4. Io ho trovato questa parte di libro particolarmente interessante. In linea con noi abbiamo il papà, che è un attore comico che ha scritto questo libro, e ve lo presento, Gianluca Belardi. Ciao Gianluca. Buongiorno a tutti, come va? Noi bene, perché devo dire che questa descrizione di Camilla, che rende bello l'uomo che le sta accanto, la trovo poetica. Guarda, penso assolutamente che tutte le donne che un uomo ha a fianco gli danno qualcosa in più, in generale, cioè tutti gli uomini che conosco erano più poveri quando soli, quindi in generale una donna non è una medaglia da mettersi al petto, ma è veramente una valorizzazione strepitosa per l'uomo. Prova a raccontarci, dopo che sei diventato papà, cosa hai scoperto di ancora più bello? Ma dacci anche magari qualche particolare un po' inaspettato, qualche effetto collaterale, ecco, della maternità rispetto alla tua compagna. Ti dico, la situazione è questa, che quando nasce un figlio, la donna proprio per una questione di DNA diventa immediatamente mamma, perde quasi tutto il suo aplomb, il suo allure da compagna, da donna, da amante, però in una qualche maniera l'uomo intelligente, perlomeno, capisce che anche quello è un arricchimento della coppia a fianco, ed è un arricchimento della coppia. Io vorrei a questo punto coinvolgere la nostra mamma Paola Maraone. Ti ritrovi in quello che dice Gianluca? Direi di sì. Non so da quanto tempo Gianluca sia diventato papà, però posso garantirgli che poi questa donna che all'improvviso perde quel suo fascino misterioso e diventa solo mamma, alla fine ritorna donna, compagna, amante. Non deve neanche passare troppo tempo, io credo. Ecco, forse se passa troppo tempo, tipo qualche decennio, c'è qualcosa che non va. Però di solito dal fisiologico, dopo qualche mese, un anno, due anni, si ritorna un po' nei panni di prima, con quell'arricchimento di cui Gianluca giustamente parlava, che è bellissimo. Tra l'altro, Gianluca, proprio Paola Maraone ci raccontava che una delle difficoltà che ha incontrato come neomamma è quella di addormentare il bambino. Lei pensava che mettendolo giù nella culla, accarezzandogli un po' la testa, il pupo, boom, cadesse in un sonno. Invece poi, ahimè, i pupi danno filo da torcere. E quindi consigliamo alle mamme in ascolto il tuo libro, Fai la nanna nannina, e tra parentesi c'è Se no mamma e papà sbroccano. No, il problema è che esistono tanti manuali per far addormentare i bambini, i figli piccoli, i neonati, perché ce n'è uno in particolare scritto da uno spagnolo sul quale mi sono un po' accanito nel libro. Senti, magari lo invitiamo una volta in trasmissione, sentiamo, cerchiamo di farlo rieducare, reimpostare da Alberto Pellai, che i papà li veramente li istruisce per bene. Io direi invece di approfittare di questi non sono proprio neogenitori, ma genitori che si confrontano con bambini come Alberto sta facendo, bambini piccoli. Sapete che si dice bambini piccoli, problemi piccoli, bambini grandi, problemi grandi, perché se nei primi mesi i bambini ci danno problemi nell'addormentamento, per mangiare, insomma, ci danno un po' del filo da torcere, quando sono grandi e diventano adolescenti, lì è veramente che i duri scendono in campo. Sentiamo questa lettera che ci ha mandato una nostra ascoltatrice e poi proviamo ad aiutarla. In casa mia è entrata l'adolescenza e all'aspetto di una figlia quattordicenne che in meno di un mese ha chiesto un piercing all'ombelico, un tatuaggio sulla schiena, un paio di scarpe con tacco 12, una tinta di capelli viola celeste, un computer sempre connesso. Dopo estenuanti contrattazioni intorno al tavolo della cena, io e suo padre abbiamo approvato la tinta di capelli e un computer connesso non più di un'ora al giorno. Per tacchi alti, piercing e tattoo, la ragazza dovrà aspettare. Ma che fatica! Ora si muove per casa un folletto dalla capigliatura colorata che a me sembra uscito da un libro di fiabe. E questo folletto sembra avere preso di mira soprattutto me, la sua mamma. Un giorno mi riempie di baci come faceva quando aveva 3 anni. Il giorno dopo non mi rivolge la parola e se lo fa, sarebbe meglio non sentire tutte le provocazioni che escono da quella bocca. Insomma, credevo di essere una mamma fortunata ed ora scopro di essere una mamma a corrente alternata, un giorno amata e un giorno odiata. Perché nessuno mi ha mai avvertito che tutto ciò sarebbe potuto succedere e avrebbe messo in crisi il mio curriculum vitae di mamma? E adesso quali saranno le prossime mosse di mia figlia? E io come devo prepararmi per reagire? Paola Maraone. Eccomi qua. Eccomi. Vogliamo subito una sua lettura di questa lettera, perché insomma magari non arrivano tutte insieme queste richieste, ma i figli adolescenti ci mettono alla prova, giustamente, fanno il loro mestiere, e che per noi è difficile poi continuare a fare il nostro. Paola. Sì, io direi che addirittura questa mamma mi sembra quasi fortunata, perché è riuscita alla fine di estenuanti contrattazioni a convincere la figlia a rinunciare per il momento ai tacchi alti, al piercing, poi chissà, magari la ragazza cambierà idea di nuovo e comincerà una nuova battaglia, però credo davvero che sia inevitabile, un po' come la gelosia tra i fratelli, anche quella è inevitabile, del resto l'adolescenza è una fase di passaggio obbligatoria, se non succede nulla allora di nuovo forse qualche cosa non va. Certo, credo che sia molto frustrante, proprio ieri sera prima di addormentarmi mi interrogavo su questo tema, perché Una mia conoscente è stata letteralmente mandata a quel paese dal figlio tredicenne in pubblico perché era arrivata in ritardo ad un appuntamento con questo ragazzo e mi si è confidata in lacrime dicendo che non riusciva più a parlare con suo figlio. A me ha sempre fatto molto ridere mia madre, io sono primogenita e dopo di me sono arrivati due gemelli. Quando io sono diventata adolescente, mia madre ha cominciato a farsi il segno della croce, a recitare novene e rosari, nonostante non fosse particolarmente devota, sperando che i gemelli non attraversassero l'adolescenza nello stesso momento. E certo, perché due insieme non si sopravviveva. Due insieme non ce la posso fare. Quello che posso dire per rassicurare questa mamma è che alla fine anche l'adolescenza passa, io me lo ricordo e mi ricordo che sono tornata a essere affettuosa, forse non ricopro più di baci mia madre come quando avevo 3 anni, ma comunque insomma l'equilibrio si è ristabilito. Invece andrei da Gianluca. Gianluca, una lettura da papà. Voi fate del terrorismo psicologico. Io ho una bimba di 5 anni e questa lettera mi ha assolutamente sconvolto. non pensavo a questo tipo di problematiche, nel senso che so che saranno, so che capiteranno, magari quando mia figlia avrà 12, 11, 12, 13 anni, ci saranno altre mode, ci saranno delle, che ne so, invece del piercing all'ombelico, delle lance da piantarsi da tempia a tempia, dei tatuaggi sotto la pianta dei piedi, non so, qualcosa. Senti, ma tu Gianluca, scusami, già comunque, i nostri genitori si sarebbero comportati in maniera completamente diversa, i nostri genitori, i nostri nonni ancora di più, avrebbero murato a viva la bambina. Va bene, quindi in base ai tuoi consigli io adesso mi munirò di una serie di mattoni, cemento e una piccola flebo con cui inviare nutrimento. Mi raccomando, non dimenticare la clava. E invece io voglio dire a questa mamma che le diamo proprio il bollino blu di mamma dell'anno, perché ha fatto un ottimo lavoro con questa figlia, è riuscita a negoziare, è riuscita a tener testa, ha fatto proprio il mestiere di genitore. Ha fatto una negoziazione che neanche meravigliosa. Senti, invece, e spero che Paola Marone si associ a me, io darei anche un bollino blu a tutte le mamme che cercano di negoziare ma poi alla fine si ritrovano con un pugno di mosche. Insomma, alla fine la negoziazione non porta nulla, magari a porte che si sbattono, perché le mamme ce la mettono tutte e no, vale anche molto l'impegno. Poi i risultati, se non arrivano subito, magari arrivano subito lì, dietro l'angolo. Che dici, Paola? Sì, io direi che comunque l'importante è provarci, non arrendersi mai e non avere mai paura di quello che succede, che davvero con i figli è tutto nuovo. Allora, salutiamo i nostri genitori, chiamiamoli così, lo sono in realtà. Grazie allora Gianluca e Paola, buona giornata. Grazie a voi. Questa casa non è un albergo. E allora è arrivato il tempo di salutare Daria Bignardi. Ciao Daria, grazie per essere con noi, buona giornata e buona festa. Grazie. Tutto ad un fiato. Senti Daria, tu sei mamma e alla tua mamma hai dedicato un libro bellissimo di cui direi che iniziamo subito a sentire un breve estratto. L'ascoltiamo insieme. Mia madre si chiamava Gianna Rosa, ma lo zio Ferruccio la chiamava la Generosa, per sfottere le sue grazie abbondanti e soprattutto la sua indole romagnola, impulsiva e irrazionale. Da quando sono andata a vivere a Milano a 23 anni, le ho telefonato, mi ha telefonato ogni dannato giorno entro le 10 del mattino. Con mia sorella Donatella dicevamo che la mamma era della CIA. Riusciva a telefonarmi in Asia, in America, a Sarajevo durante la guerra, su un'isola senza telefono. Riusciva a trovarmi ovunque e io riuscivo a telefonarle da ovunque, anche molto prima che inventassero i cellulari. Per anni la notte ho sognato di dover chiamare mia madre e non riuscire a trovare un telefono. Non che facessimo grandi conversazioni. Lei voleva soprattutto verificare che fossi viva, che durante la notte una fuga di gas o un serial killer non mi avessero uccisa. Quando poi sono nati i miei figli, voleva controllare che fossero vivi anche loro. Daria, io devo dire che è magnifico questo. In tutte noi mamme... Vabbè, era proprio così, anzi, guarda, ho minimizzato, perché era... Beh, ma poi lo sanno tante figlie e lo sanno tante madri. E poi mia madre era veramente malata di ansia ossessiva, questo gliel'ha poi diagnosticato uno psichiatra, che però era anziana, aveva 70 anni, quando io ero piccola non è che si portava la mamma dallo psichiatra, no, la mamma ce la tenevi com'era, e quindi se la mamma aveva delle ansie ingiustificate... proprio ossessive, eri tu che ti dovevi adattare a lei e non certo pretendere che lei si adattasse a te. Senti Daria, però devo dire che ti ha cresciuto bene, insomma la mamma generosa come e la sua ansia, guarda che insomma che mamma e che donna ha cresciuto. Bah, guarda, questo sai, dovresti chiedere ai miei figli. Ma io lo chiedo a te, lo chiedo a te, che mamma ti senti tu? Che cosa ti raccontano e come ti senti tu? Ma io mi sento che faccio il possibile, faccio meglio che posso e ho un amore infinito e una tenerezza infinita. Per i miei figli non sono razionale come vorrei nei loro confronti, perché sono soprattutto... viscerale e affettuosa, mentre so benissimo che sono più utili come atteggiamenti educativi quelli in cui un no è un no, eccetera, eccetera. Lo sappiamo, no? Come bisognerebbe in teoria educare i figli. Io faccio tutti gli errori che fanno tutti i genitori, quindi ma non credo proprio di poter essere presa ad esempio come madre. Meno male, no Daria? Perché io sono, ho un grande simpatia, essendo io una mamma abbastanza pasticcione e imperfetta, per le mamme un po' pasticcione che si arrabattano cercando così di seguire, di crescere i loro bambini che poi diventano ragazzi, ma noi non ce ne rendiamo conto. I tuoi sono ancora piccoli perché sono ancora in una fase di preadolescenza. Sì, no, è come... Ludovico ha 12 anni ed Emilia ne ha 6, ciò nonostante hanno una personalità piuttosto spiccata e sono anche tutto sommato abbastanza critici a modo loro nei confronti della mamma, sono bambini normalissimi e anch'io sono una madre normalissima, però è indubbio che siano molto, molto cambiati i rapporti tra figli e genitori rispetto a come erano quelli di quando ero piccola io, che magari erano molto peggio perché appunto non si mettevano in discussione i genitori, cioè lo si faceva magari poi violentemente a 20 anni andandosene di casa, come ad esempio ho fatto io, però quando si stava in casa insomma c'era una sorta di rispetto. Ti dirò, questo rispetto io sono felice di averlo sempre avuto, l'ho avuto sempre. Anche se quando sono andata via ho continuato a telefonare, ho telefonato pretesa, l'ho fatta ogni giorno entro le 10. Pretesa, sono sempre andata a trovare mia madre più spesso che potevo, le sono sempre stata devota quando lei aveva bisogno, io c'ero, ma ne sono molto contenta di questa devozione, di questo legame, pur nella critica, pur nel conflitto, pur nel certo. Litigio, perché abbiamo litigato moltissimo, però questo rispetto lo sento profondamente, questo rispetto che le ho sempre portato. Daria, abbiamo letto davvero con molta attenzione il tuo libro e credo che contenga un percorso che farebbe bene a molti di noi, a molti ascoltatori di mezza età, perché c'è un periodo della vita in cui i genitori sono territorio di aggressione. Improvvisamente, proprio come tu dici della tua mamma, arriva un momento in cui invece senti che sono persone da proteggere, quindi in qualche modo dalla conflittualità si passa proprio alla tenerezza e alla protezione, cambiamento di registro che tu descrivi perfettamente nelle pagine autobiografiche, e credo che questo ti abbia proprio permesso di raccontare poi la tua mamma con due lenti, quello della ragazza e della figlia giovane che sei stata e poi quello della donna adulta diventata madre, che è diventata a sua volta anche un po' madre della sua mamma. In questo percorso che hai fatto anche per scrivere il libro, cosa hai riscoperto della tua mamma che magari avevi messo in ombra? Cosa è ritornato a galla? Tra le pagine del libro emergono veramente tante immagini. Cosa ti rimane più nel cuore? Beh, guarda, ho fatto proprio delle scoperte letterali scrivendo il libro, perché noi in famiglia ridevamo molto, io e mia sorella prendevamo molto in giro la mamma, perché è vero, era ansiosa, insopportabile, eccetera, però era molto affettuosa e poi si faceva prendere in giro. E mia madre si raccontava sempre come una ragazza che era stata molto bella, che era stata molto brava a scuola, che aveva 1000 amiche, e noi le dicevamo, ma sì mamma, figurati, dai, ma che amiche vuoi avere con quel caratterazzo? Ho proprio letteralmente scoperto nei suoi cassetti lettere di compagne di scuola adoranti che le scrivevano alla mia Giannina adorata, frate che mi ha sempre passato la versione di latino: Giannina, eri la più bella, la più buona, la più allegra della classe. Noi non le credevamo quando lei si raccontava di essere stata così bella, brava e soprattutto allegra. E lei ci diceva: no, voi siete molto più brutte di me e anche meno brave, e io ero anche più simpatica. Noi diciamo: ma figurati, ma più simpatica con quel caratteraccio che hai, sei pessimista, sei sempre una, e non ci credevamo. E io invece ho conosciuto veramente mia madre, che poi sai, quando sei un bambino la mamma è la mamma, non si discute, poi quando hai 11-12 anni cominci a vederla in maniera critica. Ecco, quella mamma lì aveva già 50 anni quando io l'ho conosciuta. Ho scoperto, scrivendo il libro e cercando tutti quei documenti, le foto, le lettere, che era veramente come diceva lei, che era veramente simpaticissima, allegra, brava, bella. Ho trovato il suo libretto universitario pieno di 30 lode. Vedi? Vedi, noi non le credevamo, e invece aveva ragione. Però vi ha lasciato molto, perché della sua energia, della sua simpatia, della sua voglia di fare, sicuramente avete preso tanto, Daria, perché sicuramente riscrivere un libro sulla propria mamma è una bella fatica emotiva, come direbbe Alberto, ma penso, e il tuo libro lo dimostra, arricchisca molto. Adesso non tutti noi possiamo scrivere un libro per la nostra mamma, ma è un bellissimo gesto d'amore, credo. Ma guarda, credo che tutti noi potremmo farlo, poi certamente la scrittura può venire più o meno facile, però io credo che ogni mamma sia un romanzo, a parte che penso che ogni vita lo sia, ma le madri in particolare, e poi le madri di una certa generazione ancora di più. Mia madre si era sposata durante la guerra, i miei genitori si sono sposati nel giugno del 1945, quindi hanno avuto tante vite, erano giovani sotto il fascismo, si sono sposati durante la guerra, sono andati a vivere a Ferrara, loro erano bolognesi subito dopo la guerra, poi sono entrati negli anni 60, hanno visto il mondo cambiare tante volte. Le famiglie italiane sono piene di storie come questa. A me scrivono tantissime persone, c'è un indirizzo sul libro, che è proprio il mio indirizzo per parlare di questo libro, e mi arrivano storie meravigliose di mamme, di famiglie. Tanti mi dicono: anch'io, anche mia madre faceva così, anch'io mi sogno di notte che non trovo il telefono per chiamarla. Questo è proprio un sogno comune a molte donne. Ricordo il titolo del tuo libro, Non vi lascerò orfani, pubblicato da Mondadori. Troverete anche appunto l'indirizzo per scrivere ad Daria, per confrontarvi. Noi speriamo di averla di nuovo ospite in trasmissione. Daria, un abbraccio, tanti auguri, viva le mamme. Facciamo tanti auguri alle mamme, dai. Anche alle mamme ansiose, che ne hanno molto bisogno. Un bacio grande a Daria Bignardi per essere stata con noi. Grazie. Ciao. Questa casa non è un albergo. E adesso mamme, non solo, perché Alberto vogliamo anche i papà, vogliamo far lavorare anche loro, vero? Oggi in modo particolare. Perché vogliamo darvi un piccolo progetto familiare da gestire tutti insieme per rendere questo periodo di vacanza davvero unico. Alberto, che dici? Andiamo nell'orto? Sì, vi abbiamo messo al lavoro le scorse settimane, vogliamo farlo anche in questa nuova settimana di vacanze. Siete tutti più rilassati, più riposati, avete molto più tempo. Avete voglia di stare insieme, genitori e figli? Noi abbiamo trovato il progetto che fa per voi. E ci guida Nadia Nicoletti, che ha pubblicato per Salani Editore il libro L'insalata era nell'orto, l'orto a scuola e nel tempo libero. Bentornata, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno. Senta, il suo libro mi piace tantissimo e poi trovo che sia geniale. Mi fa piacere. Magnifico, far lavorare di nuovo i bambini con la terra, farli seminare, farli vedere crescere le piantine, abituarli all'amore dell'innaffiatura, insomma io lo trovo veramente, ha fatto benissimo, insomma io sono una sua grande ammiratrice, ma sto contagiando anche Alberto, che metterà al lavoro tutti i suoi bambini. Lui ha una squadra di mini giardinieri. Ah, che bello, questa notizia mi dà molta gioia. E abbiamo anche d'estate, ci sono dei bambini che possono fare l'orto da qualche parte, una piccolissima striscia d'orto che nel nostro cortile, dove in realtà è il nonno che segue l'orto, però loro amano moltissimo. Hanno già raccolto le fragole quest'anno, adesso abbiamo fatto le zucchine, mancano i pomodori, ma noi vorremmo capire con lei, Nadia, se anche se uno non ha una scriscia d'orto nel giardino, piccoli progetti di ortobotanica da seguire nel mese di agosto. Tanto per cominciare, il mese di agosto è un buon mese? Ma il mese di agosto è un mese di passaggio fra, diciamo, la stagione primavera, estate e poi l'autunno che arriva, per cui si possono mettere, diciamo, alcune cose che vengono prevalentemente in autunno, che potrebbero essere, ad esempio, del radicchio, della cicoria, le ultime lattughe, che potrebbero diventare un po' le nostre verdure che mangiamo crude, oppure una cosa interessante da mettere ad agosto sono i rapanelli, i ravanelli che vengono in autunno. Sia il ravanello, quello rosso, presente, quello piccolino, eccetera, una buona semina di agosto ci dà ancora un buon raccolto, ma ci sono in commercio dei ravanelli che sono dei ravanelli autunnali e sono molto più grossi. Uno si chiama ravanello nero e l'altro si chiama ravanello birra di Monaco, per esempio. Sono due varietà di ravanelli che si seminano ad agosto e poi maturano e sono pronti per ottobre. Una volta venivano coltivati per poi essere messi da parte nelle cantine come verdura da consumare durante l'inverno. Perché sono molto ricchi di vitamina C i ravanelli. Sì, anche il ravanello nero in particolare. Quindi vanno perfettamente bene È una cosa carina da mettere in un orto estivo. Poi si possono mettere, per esempio, degli spinaci. Buoni, da mangiare arrivano ancora poi crudi. A crescere bene e a maturare. Poi non dobbiamo assolutamente dimenticarci in un orto la valeriana, che è detto anche il soncino. Sono delle piccoli ciuffetti di un'insalatina deliziosissima che c'è fino a quando fa molto freddo, riesce a crescere fino a quando fa freddo, fino alla prima neve. Si chiama valerianella, valeriana, soncino. E poi mi verrebbe in mente, ci sono altre cose che si possono mettere, per esempio anche seminare un po' di misticanza, che è questa insalatina mista, rucola e altri tipi di insalatina che è molto buona, che ai bambini di solito anche questa varietà di colore piace. E poi così almeno mangiano quello che raccolgono. Sì, guardi, i bambini non hanno una grande attrazione verso alcune verdure. Lo so bene. Pensavo che col gioco di fargliela coltivare sia a scuola che in casa con i nonni, con i genitori, poi si appassionano, almeno assaggiano. Ecco Alberto, almeno vedi. Poi, Nadia, però la porto indietro di un passo, perché visto che cominciamo a essere conquistati dall'idea di dedicarci a un piccolo orto, ci accompagni in un supermercato, in un centro fai da te, per chi è totalmente profano, quali sono le cose che devono essere messe nel carrello e che sono fondamentali, quelli che l'esperto chiama lo starter's kit, il kit del principiante? Sì, io guardi, devo essere sincera, io tendo a dire che servono pochissime cose. Prima di tutto, chi ha la fortuna di avere un pezzo di terra, l'importante è che faccia un orto che non sia troppo grande, perché noi abbiamo sempre la mania di fare degli orti molto grandi che poi in realtà danno delle produzioni molto quasi industriali che dobbiamo regalare la verdura. Con 20 metri quadri di orto ci vive benissimo un'intera famiglia piuttosto numerosa, per cui se noi abbiamo anche una piccola aiola possiamo fare delle grandi cose. Non è importante che sia molto grande. Dopodiché ci vogliono dei piccoli attrezzi, una zappetta, una piccola vanghetta, un vanghetto, un annaffiatoio, delle buste di semi, alcune piantine si possono trapiantare, come per esempio alcune aromatiche. Io in un orto non farei mai mancare una pianta di rosmarino, una pianta di menta, una pianta di salvia. Qualcosa che comunque faccia profumare anche il nostro angolo di orto e che noi in cucina utilizziamo con molta facilità. Pensi per esempio all'erba cipollina. Io sono trentina, buonissima. Per cui noi facciamo un grande uso di questa erba che è una della famiglia della cipolla. Noi continuiamo a tagliarla con le forbici e anche se la piantina non è molto grande, riusciamo ad avere sempre qualcosa di fresco. Di qualcosa di da, da, da tagliare fresco fresco su tutte le insalate, per esempio. Ha un sapore che assomiglia alla cipolla, ma è molto più delicato. Nadia, io volevo chiederle, dato che abbiamo a disposizione questa squadra di mini giardinieri che sono i figli di Alberto, io direi Caterina, la più piccola, non ha ancora un anno, la lasciamo a riposo, guarda, ma per gli altri che hanno 3, 5 e quasi 8 anni, io direi cerchiamo per ciascuno di loro una cosa da fare, in modo da dividere i compiti. Iniziamo dai più piccoli, perché così tutti sono contenti e soddisfatti, ma ecco, delimitiamo un po' i danni anche, perché... Ricordare questa cosa, che chi ha la fortuna di avere questo posto, un orto diventa un campo in cui si può coltivare veramente non solo le verdure, ma anche una specie di pace familiare, nel senso che chi lavora, chi ha un piccolo orto, vedrà, poi i bambini stanno molto bravi. Nel senso che dentro ti cantano un po' le tensioni, diventa un modo per stare bene anche insieme. Ci vorrebbe un nonno che sa delle storie. Ce l'abbiamo il nonno. Ce l'avete? Sì, il nonno, ce l'ha, no? L'Alberto. Ne sa qualcosa, certo. Poi qualche papà che fa i lavori un pochino pesanti, come per esempio preparare l'aiola vangata. Alberto, tocca non a te. Capaci di okay. farlo, no? Ci vuole così. E poi, secondo me, ci sono dei lavori che parlo da insegnante, ma anche così ho tanti bambini, io non ho figli, ma ho tanti figli dei miei amici, e ci sono dei lavori che si fanno insieme, genitori, sì. nonni e bambini, e dei lavori che possono fare anche i bambini da soli. Allora, pensando a un terreno che viene preparato, direi che un genitore, un nonno può fare la vangatura, per esempio, prepara, diciamo, fa il lavoro che è il lavoro più pesante. Poi insieme si può seminare quello che c'è da seminare, oppure decidere dove mettere le cose se l'orto non è ancora stato fatto. E poi ci sono dei lavori che i bambini possono fare da soli. Uno di questi lavori è, con annaffiatoi molto piccoli, da 2 litri, 3 litri, insegnare ai bambini a dare l'acqua. E l'acqua non è così scontato saperla dare, perché l'acqua va data sempre alla base delle piante. Non, è un errore, per esempio, bagnare le foglie, soprattutto dei pomodori, dei peperoni. E bisogna stare attenti a non bagnare le foglie, perché poi la foglia bagnata con il sole fa sì che si possano sviluppare delle malattie fungine, cioè delle malattie criptogame, insomma, che dopo vanno curate. Allora, un bambino che sa bagnare una pianta vuol dire che ha sviluppato anche un amore nei confronti di quella pianta, che è capace di dargli le cose di cui la pianta ha bisogno, e stabilisce con la pianta un rapporto. E questo mi sembra una cosa molto bella. Allora, pensando a un bambino molto piccolo di 3 anni, io direi che seminare dei ravanelli con vicino il papà o la mamma o un fratellino più grande può essere capace. Insegnargli, dicendogli di non mettere, facendogli vedere che i semini non vanno messi troppo fitti, perché altrimenti poi quando germinano non hanno lo spazio. Però seminare dei ravanelli o della rucola, un bambino piccolo può essere capace. Se non è capace di tenere i semini fra le mani, che sono troppo piccoli, io li insegno ai miei bambini, ho avuto i bambini di prima, e li mescolo con della sabbia, un pochettino di sabbia, in modo che il bambino abbia la facilità di spargere questo semino nel solchetto. Mi sono spiegata? No, ma si è spiegata benissimo, e noi siamo rimasti siamo incantati, perché vorremmo essere dei bambini anche noi e venire nell'orto con lei. Ma potete venire. Ma io mi sento già invitata, guardi. Io verrò sicuramente. Passiamo ad Alice, che ha 5 anni, e ai coetanei di Alice, che cosa gli facciamo fare? Un bambino, per esempio, gli diamo questo compito di dire, ti do una piantina un po' grande, tu prepari la buchetta e la metti a posto, che si chiama trapianto. Sì. Allora, ad esempio, io penso sempre alla menta, al trapianto della menta, perché è facile e non... Io gli do una piantina di menta in un vasetto, gli insegno a svasarla, per cui per svasare una pianta l'importante è bagnarla bene nel suo vasetto. Poi gli insegno a rovesciarla, a tenere nella manina la parte, diciamo, erbacea, mentre con l'altra mi aiuto e la faccio uscire. Poi preparo con una palettina una buchetta piuttosto grande, in modo che ci stia dentro bene, poi gliela faccio adagiare, faccio mettere la terra tutta attorno e poi la faccio un po' pressare con le manine. Ecco, in modo questo che... è delicatezza e accoglienza, perché mi sembra, da quanto lei ci descrive, che da ogni gesto si possa ricavare poi un messaggio, uno spunto, una riflessione su cui lavorare con i nostri bambini. E per ultimo, rapidamente, prima di salutarci, occupiamo anche Jacopo, 8 anni. Certo, a Jacopo li facciamo, i bambini grandi sono bravi a fare un po' tutto, per cui anche ad usare una piccola zappetta e a dare una zappettata, una rastrellata, oppure gli diamo dei compiti anche di responsabilità. Insomma, aspettiamo i prodotti dell'orto di Alberto Pellai. Intanto saluto Nadia Nicoletti, è stato davvero un piacere. Torneremo presto a trovarle a parlare di orto. Grazie. Grazie molte. Buona giornata. Ricordiamo il libro, Alberto, L'insalata era nell'orto, l'orto a scuola e nel tempo libero. Ci salutiamo? Sì. Vai a lavorare allora, con la zappetta. A me tocca zappare oggi. Buona giornata a tutti allora, da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.